ci sta, alla fine non si parla mia male di San Giovanni. Qualche volta. Qualche battuta, ma... Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in piano centro storico di Montevarchi. Come sempre e come sempre ringraziamo il nostro Stefano Neri che ci concede questo spazio. Fumino, torniamo a parlare di Montevarchi, anche stasera con noi un tifoso. Dici, introducicelo anzi e spiegaci chi è. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, grazie Julian, è proprio così, stasera abbiamo un tifoso di quelli che io da bambinetto mi ricordavo già grande a seguire il Montevarchi, quindi avrà da raccontarcene di cotte e di crude, ma bando alle ciance, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni ad Alberto Caldelli, conosciuto più negli ambienti dello stadio rosso-blu, ovvero il Brilliperi, come il ninja. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti per l'invito. È un piacere essere qua. Allora ninja, prima di farti la prima domanda, stavolta me lo sono ricordato io, te lo sei dimenticato te, Fumino, il nostro regista da ringraziare stasera. Abbiamo un livornese doc. Ero a mangiare un uovo sodo. Esatto, e abbiamo infatti qui con noi Paolo Virzì, che è dietro ai mixer della regia, e quindi stasera si parla anche un po' livornese qui a Montevarchi. Boia. Ninja, venendo a te, la prima domanda di rito ovviamente, da quanti anni segui l'Aquila e com'è che è nata la passione e l'amore per il Montevarchi? La passione per l'Aquila è nata e sono nato davanti allo stadio, e con la precisione davanti alla porta dello spogliatoio, quindi al quinto piano. Quindi per me la domenica fin da piccolo era un evento, perché arrivavano i portoghesi dal quinto piano che vedevano la partita senza pagare. Invece mio babbo andava allo stadio. Sono cresciuto con questa cosa, nascere davanti allo stadio. E quando tu sei nato in quegli anni a Montevarchi non c'era un tifo organizzato, e poi tu invece ti sei ritrovato a fare parte durante la tua vita anche del tifo organizzato che animava gli spalti della curva rosso-blu. Bene, come è nata invece la tua passione talmente forte da addirittura fare parte del tifo organizzato? È nata piano piano, dall'anno della promozione in Serie D, in C2, dove abbiamo vinto anche la Coppa Italia. E da lì piano piano frequenti lo stadio, frequenti gli amici, sei un adolescente, sei un bordello, sei, come si dice a Montevarchi, però poi piano piano nasce e cresci e frequenti lo stadio, e poi ti trovi in balaustra, e da lì in poi ti vengono i brividi, e quindi da lì in poi nasce una cosa che non si può descrivere a chi non è stato su quei gradoni. E invece dovresti provare a descrivercela, perché comunque tante persone che ci ascoltano evidentemente forse non conoscono bene quello che è il mondo ultras, o quantomeno anche i rapporti che si stringono all'interno di una curva, se frequentata spesso o quasi sempre come è capitato a te. Da un punto di vista proprio sentimentale, come potresti riassumere quello che è stato per te essere parte di un gruppo ultras e poi continuare a vivere la tua vita, probabilmente tenendoti vicino a alcuni dei tuoi colleghi del tempo? È una cosa strana, eh. È difficile anche descrivere una cosa del genere, perché ti ritrovi in un contesto di amicizie, dove ci stai bene, dove ti rendi partecipe e sei parte integrante di una cosa che esporti Montevarchi fuori provincia. Perché quando sono andato io le prime volte, ti ritrovi a trasferte come Entella Chiavari, ti ritrovi a Ponzacco, a Poggibonsi, dove vuoi dimostrare di essere più forte degli altri, o con la voce, qualche volta anche con qualche cos'altro, però con la voce o con la presenza che ti fa veramente dire siamo stati più forti di loro, siamo stati. Hai trascinato la squadra a un pareggio, a una vittoria, anche una sconfitta, però dove te ti sei identificato di essere di Montevarchi. E quello che ti fa... Montevarchi è... Per me Montevarchi è... Cioè io non ho mai detto, quando vai fuori, sono di Firenze, sono di qua, sarò di là. Io sono di Montevarchi solo. Dove sta Montevarchi? Montevarchi sta all'inizio della Chiantigiana. E da lì in poi tutti sanno dov'è Montevarchi, perché la Chiantigiana, legato al Chianti, legato a quello che puoi vedere, a puoi sapere, Montevarchi sta lì, nel triangolo tra Montevarchi, Siena ed Arezzo. È quello che ti fa identificare di essere di Montevarchi, all'inizio della Chiantigiana. E poi da lì in poi cresci e diventi quello che ti piace diventare. Cioè poi c'è anche un fatto personale. Cioè quando poi le persone ti seguono, oppure ti dicono, ti fermano per strada, avete bisogno, anche a livello economico, perché tanti anni fa, anche 20 anni fa, ti fermavano per via Roma e ti mettevano soldi in mano, ti mettevano, per dirti Fumogeni, coreografia, fate qualcosa che sia per far diventare bella la curva. E questa è una cosa che ti rende orgoglioso di quello che stai facendo, e poi più che altro il gruppo d'amici che ti crei intorno, che tutti la pensano allo stesso modo, con le varie divergenze. Non so, tutte rose e fiori nella nostra curva, e non sono mai state. Altri ospiti prima di te, Alberto, ci dicevano appunto come nella curva abbiano trovato gli amici di una vita, o qualcuno addirittura le mogli. Però una cosa che ricorre spesso nei pensieri dei tifosi quando vanno a vedere la partita: ammettiamo che il Montevarchi in campo perda, però nel viaggio di ritorno, magari in un pullman, analizzando la partita persa dal punto di vista della squadra giocata, che ha giocato la partita e che ha perso sul campo, però la curva magari dice: sì, loro hanno perso, ma noi anche oggi abbiamo vinto, perché magari abbiamo cantato di più, perché magari abbiamo portato più in alto verso l'orgoglio appunto di quello che noi rappresentiamo quando andiamo a seguire il Montevarchi, soprattutto nelle domeniche fuori casa. E quindi avere perso la partita in campo non è così spiacevole. Anche il viaggio di ritorno in pullman magari si canta e si fa festa, perché comunque noi come tifoseria siamo stati, a nostro giudizio, migliori degli altri. Bene, quando succede questo, da un punto di vista proprio del tifoso, ti ricordi di qualche trasferta in particolare in cui magari il Montevarchi aveva perso, ma assolutamente la nostra tifoseria aveva portato in alto i propri colori in maniera più che egregia? Trasferte lunghe dove abbiamo perso, abbiamo pareggiato, abbiamo vinto, ci sono state tantissime, ma di calcio al ritorno non si è mai parlato, perché l'unica cosa era continuare a divertirsi, e ci divertivamo cantando, bevendo e mangiando. Succedeva di tutto dentro pullman, succedeva di tutto, succedeva, però sempre goliardicamente parlando, non allenatori dentro pullman non c'erano mai stati, almeno di quello che ho vissuto io. Si poteva dire, vabbè, poteva giocare meglio, poteva giocare peggio, ci sono state delle contestazioni abbastanza forti, ci sono state, specialmente quando ti fai tanti chilometri e tu vedi qualche dono in campo che ha fatto gli affari suoi. Ti posso dire, Alzano Virescit a un nostro portiere, abbiamo preso due pappine la vigilia di Natale, dove ci siamo fatti Alzano Virescit è Bergamo, ma è sopra Bergamo, dove abbiamo pagato, dove ci hanno trattato malissimo a un ristorante. Però poi finisce lì, finisce, torni a casa, torni, ma ti diverti lo stesso, o che sei in pullman o che sei in macchina. Alla fine è l'amicizia che ci ha legato e ci legherà per sempre, e anche perdere fa parte di gioco, fa parte. Vincere è sempre bello, non sempre si può vincere. Poi non è che noi siamo stati sempre una grande squadra, siamo stati anche abbastanza scarsi qualche volta. Ci sono stati anni e anni di nani e ballerine, come più volte sono stati citati durante le nostre trasmissioni, in cui in effetti c'era ben poco da divertirsi a guardare solo il risultato, ma in cui però la curva ha mantenuto la sua identità, ha mantenuto, ha tenuto botta, per dirla con un gergo magari più giovane magari dei nostri tempi, però ecco, ha tenuto botta. E oggi questa curva ha vissuto 4 anni di promozioni e di grandi soddisfazioni, seppure in categorie minori. Bene, secondo te, aver vissuto, grazie ad una nuova dirigenza, grazie al ritorno dei Montevarchini alla dirigenza del Montevarchi Calcio, abbia aiutato a cementificare di nuovo, magari per un altro ciclo di chissà quanti anni, appunto l'amicizia e il legame che i Montevarchini stringono fra di sé? Non dimentichiamoci che magari le tue esperienze da ventenne erano negli anni 90, che è un mondo totalmente diverso dal mondo di oggi, in cui i ragazzi tendono a stare, ahimè, sul cellulare a fare i giochini da soli in casa, oppure a un computer a chattare con un amico virtuale magari di Melbourne. Io sono dell'opinione che quando si vince un campionato, che si vinca in una categoria come la seconda categoria, giusto, no? O che si vinca in eccellenza, è sempre un campionato vinto. E l'euforia che io ho visto a Cortona, quando siamo andati a Cortona, è la stessa euforia che io ho trovato a Barancalugo, è la stessa euforia che io ho trovato a Empoli, è la stessa euforia che quando siamo andati a Salutio, l'euforia è sempre la stessa. Siamo una categoria, si può dire, di merda, però sempre ci siamo divertiti. Non do colpa alla categoria, do colpa alle nuove generazioni che hanno talmente tanti input che lo stadio è l'ultima cosa. Noi avevamo due cose: lo stadio, l'impero e Fiscarraldo, e prima di Fiscarraldo era Mythos, e quindi avevamo 3 cose. Dovevamo fare delle scelte: si va allo stadio, costava 5.000 lire, andavamo al Mythos, costava 5, in tasca ne avevamo 10, i conti erano in quelli, i conti. E quindi perché costava 5 il Mythos? Perché andavamo alle 6, alle 5 e mezzo e facevamo un'ora di disco, perché se no non c'era nient'altro, non c'era, cellulare non ce l'avevamo, avevamo un motorino, non avevamo soldi, non avevamo. Specifichiamo per gli ascoltatori che non sono di Montevarchi o che non sono del Valdarno, che i posti citati dal ninja, e ti chiamo ninja, giusto, insomma, giusto, perché ovviamente per me sei il ninja, ecco, sono posti magari dove gli agglomerati si radunavano e si conoscevano e iniziavano le amicizie, appunto lo stadio, le discoteche oppure qualche bar. Poi secondo me, Ninja, hai dato prima una descrizione perfetta di quello che più o meno ci poniamo di ricercare in questa trasmissione, perché noi, come sai, indaghiamo o perlomeno ci facciamo carico della ricerca della cosiddetta montevarchinità attraverso lo stadio, attraverso il Montevarchi, e te prima hai dato proprio una descrizione di quanto è importante per un tifoso di Montevarchi rappresentare il Montevarchi e quindi sentirsi montevarchino e sentirsi portatore di quella che si può definire la montevarchinità fuori dai confini cittadini. Portatore sano, aggiungerei. Sanissimo, diciamolo. E a proprio a questo proposito mi verrebbe da domandarti, perché te giustamente ci stavi facendo un excursus con le tue opinioni di trasformazione generazionale in curva che ti hai visto, ma la città come l'hai vista trasformarsi da quando avevi 20 anni ad oggi? La città l'ho vista trasformarsi in una maniera che non mi piace, perché già Montevarchi è già chiusa di suo come città e come mentalità, siamo chiusi, siamo già ai tempi di mio babbo che mi diceva che Montevarchi è una città operaia, è una città dormitorio. E questo ha portato ancora ad oggi a ancora di più una cosa del genere. Io vedo un centro storico che ormai secondo me è finito, un centro storico, perché non c'è più un centro storico, ci sono varie aggregazioni fuori da Montevarchi dove non c'è più niente, non ci sono gruppi di amici, non ci sono più luoghi dove veramente parlare di cosa. Ora internet oppure lo smartphone ci ha portato tutti, compreso me, a essere quasi dipendenti da uno strumento. Una volta lo strumento non c'era e quindi se volevi uscire e trovare 2 parole o andavi fuori o andavi fuori. Io sono cresciuto in via Roma e in piazza Varchi, come il 90% della mia generazione. La mia generazione usciva dal lavorare e correva a 18 anni, 20 anni, 22 in via Roma, perché tutti eravamo lì. Cioè, eravamo lì, io e dormivo, io e stavo di casa all'anno nel quartiere del Pep, ma questo succedeva a chi stava al Pestello, a chi stava al Giglio, a chi stava a San Giovanni, a Montevarchi, è che tutti ci rinnovavamo e tutti ci vedevamo. Una cosa che non riuscivamo a tirare fuori un pulma il venerdì sera alle 7 in via Roma, e questo è successo tante volte. Partita di cartello, partita un po' pericolosa, un po' a rischio, arrivavamo a giovedì, 20 persone, entravamo in via Roma il venerdì sera, vieni, non vieni, arrivavi alla sera alle 8:30, per andare a casa, e il pulma era fatto. Questo oggi io penso sia improponibile una cosa del genere. Questo mi dà dispiacere, perché manca secondo me un po' d'aggregazione, manca. Probabilmente comunque la ricetta che dai te potrebbe essere davvero la soluzione, cioè quella di tornare un attimino sui nostri passi per ritrovare il piacere di frequentare dei luoghi di aggregazione in maniera, socializzando in maniera reale piuttosto che in maniera virtuale. E questo mi viene sempre in mente di fare il paragone e di utilizzare come esempio quello che è stato fatto con la società a Montevarchi, perché da un certo punto di vista anche il Montevarchi calcio era andato degradandosi in quello che te prima, Fumino, descrivevi il periodo dei nani e delle ballerine, però fortunatamente ripresa alla vecchia maniera, cioè tornando i montevarchini in società, si è riusciti a ridargli vita ripraticando quello che era stato praticato negli anni in cui probabilmente frequentavano il Montevarchi o comunque lo stadio i nostri genitori. Alla stessa maniera, probabilmente, a prescindere dalle tante parole, la vera soluzione non può essere altro che quella di tornare a rifrequentare il centro storico, ma non perché c'è il mercato di Forte dei Marmi, per me è una fissa, ma semplicemente perché bisogna tornare a praticare una socializzazione diversa e a vedere i luoghi e gli spazi di aggregazione in centro come luoghi di condivisione, non luoghi di passaggio. Parlando dei tempi passati, degli anni 90, come prima dicevamo appunto nelle discoteche e delle abitudini che avevamo in quei tempi, oggi ci sono altri mezzi e quindi le abitudini sono cambiate e stanno cambiando anche per noi, non è che sono cambiate solo per i ventenni di oggi, ma per noi no. Quindi negli anni 90 succedeva molto spesso che oltre ad esserci una partecipata presenza maggiore appunto allo stadio, perché comunque gli svaghi erano minori e c'erano quindi tante persone che si interessavano, ma c'erano anche tante persone che allo stadio non ci andavano mai, ma ad esempio notavano se fuori dai bar c'era una bandiera in caso di pareggio, due bandiere in caso di vittoria o zero bandiere in caso di sconfitta, e queste cose le commentavano. Ora, analizzando più o meno quello che ci è stato detto in tutte le puntate passate, ci rendiamo conto del fatto che ancora gli umori dei montevarchini cambiano in base a quello che ha fatto la squadra la domenica oppure non ha fatto. Quindi se il Montevarchi ha vinto magari le persone sono più gioviali fino al mercoledì, ma se il Montevarchi ha pareggiato o ha perso addirittura, gli umori sono neri fino al mercoledì, poi si inizia a parlare della partita successiva e tutto passa. Questa cosa l'avverti anche te? La provavi anche te oppure è solo una nostra fantasia? Non è una fantasia, secondo me la prova ancora, la prova. Io non frequento tanto gli stadi negli ultimi anni, però io ancora, ora c'è un altro mezzo, andiamo su internet, vediamo serie D, girone D e quindi troviamo risultati. Però fa conto, mio suocero, che è grande tifoso di Montevarchi, è Gagliardetto in salotto, lui sa già cosa ha fatto in Montevarchi quando mi vede la domenica pomeriggio. E questo quindi... Ma lo sa perché vede il tuo umore? O lo sa perché l'ha visto su internet? Ma perché secondo me o ascolta la radio o qualcosa ascolta. Oppure ha trovato fuori, nella sua passeggiata la domenica pomeriggio, ha trovato chi è ancora alla radiolina e ascolta il Montevarchi calcio. E non è l'unico, perché se vai a giro per Montevarchi la domenica pomeriggio, a me mi capita spesso con due figli, vai a giro per Montevarchio nel passeggino, trovi ancora le persone che ascoltano la radiolina. E questo sono settantenni, sono ottantenni che magari non ascoltano il telefono, lo smartphone, però ascoltano la radiolina e quindi ascoltano la Serie A, ma fanno anche un passaggio sulla radio locale, dove danno i risultati del Montevarchi. E poi ho un passaparola, perché cosa ha fatto in Montevarchi, non so come mai mio suocero, che non va su internet, sul telefonino, i risultati del Montevarchi le conosce. È una cosa strana, tu dirai, ma secondo me ancora è perché c'hanno questo cervello che ancora frulla intorno al Montevarchi. In effetti, a pensarci bene, in questo periodo in cui stiamo registrando e il campionato è finito, i playoff non sono arrivati e quindi il Montevarchi ha concluso la sua attività, la domanda che più mi viene rivolta in questi giorni è: ma che allenatore avremo il prossimo anno? E vuol dire che la gente si interessa anche a bocce ferme. Sì, poi passeranno a chiedere dei nuovi acquisti e comunque poi ci sarà, auguriamoci, la presentazione, e poi sarà già momento per tornare allo stadio a vedere le prime amichevoli. Ma a proposito di partite e tornando ai tuoi anni, quindi agli ultimi anni in cui Montevarchi ha militato in C1, anni se ne parlava anche con Idema, con Dimitri Lepri qualche puntata fa, in cui erano tanti i derby, era tanto il campanile toscano, e io ti vorrei fare la stessa domanda che abbiamo fatto a Dema: qual è il vero derby per i montevarchini secondo te? Perché c'è questa grande discussione sul fatto che il vero derby è con l'Arezzo, visto appunto che era comunque la partita di cartello negli anni di Serie C1 in cui la San Giovannese militava in categorie molto basse, altri invece dicono che la quasi extracittadina è con il San Giovanni per una questione di vicinanza. Te come la vedi? Il derby con il San Giovanni io non l'ho mai visto, l'ho visto negli ultimi anni, 2001, 2002, e prima? Io prima non l'ho visti, cioè prima io ho visto l'Arezzo l'ho visto da 18-19 anni, anche prima, anche 16-17, 88-87, quando ero veramente un ragazzino, quando veramente ho visto fuori anche non belle cose. E per me il derby è con l'Arezzo, è anche un fatto di, non di storia, di appartenenza. Secondo me noi siamo di Montevarchi, però sono di Arezzo. Qualche volta io, parlando in casa, dico è un fatto di razzismo. Ho tanti amici ad Arezzo, ma glielo ho detto in faccia. Infatti, se si riparte indietro, io ho regalato il libro che abbiamo scritto insieme ad altre persone a Montevarchi, ho dato a tifosi dell'Arezzo, dell'Arezzo ovunque, e non me ne vergogno, l'ho proprio regalato, autografato, e loro non hanno accettato di buon grado, perché anche loro potranno dire cosa vi pare, potranno dire, ma a Montevarchi o ad Arezzo c'è sempre stato un bel divertimento per entrambi. E con il San Giovanni non l'ho mai visto un derby veramente contasse, sempre derby abbastanza anonimi. Negli ultimi anni non c'è stato mai vinco qualcosa, non c'è stato niente di questo, di tutto ciò. Magari a tempi di mio babbo sì, o magari ancora prima sì, però io non l'ho mai visto e quindi non posso dire che derby è quel San Giovanni. Cioè loro hanno perso, sfortunatamente per tutti noi, delle generazioni. Dopo la disfatta che hanno avuto loro societariamente, hanno perso delle generazioni che non sono della mia generazione, non è andata mai allo stadio con l'enfasi sono andato io. Non avevano una squadra, non avevano. E quindi è quello è la differenza, secondo me, per me. Tornando ad un argomento in cui in altre puntate è venuto fuori appunto il discorso di essere padre e di avere vissuto la curva. Ad esempio, se tuo figlio, i tuoi figli fossero un giorno, arrivassero a casa e ti dicessero: guarda babbo, ho iniziato ad uscire con i ragazzi della curva, vado in curva a vedere il Montevarchi. Bene, tu, sapendo le dinamiche della curva, saresti un padre tranquillo oppure no? Io penserei di essere abbastanza tranquillo che i miei figli o mio figlio vada allo stadio e frequenti la curva. Perché secondo me le cattive amicizie si possono incontrare da tutte le altre parti. Bisogna vedere quali sono le tue amicizie. Poi per il resto, lo stadio, se è passione, se è come tutte le cose, vanno vissute con il cuore. Perché tanto se le cattive amicizie o i problemi legati a droga, a quello si può, non è che sono allo stadio e basta, sono da tutte le parti. Sono ora ti giri in tutte le piazze, ci sono problemi, e già a Montevarchi è così da qualche anno. Basta, se hai un po' l'occhio lungo, lo vedi da tutte le parti, lo vedi. E quindi non è che lo stadio è il nucleo di tutto ciò. Io problemi non ho mai avuto problemi di questo qui, e anche i miei genitori sono stati abbastanza tranquilli, mi hanno lasciato libero di scegliere ad andare allo stadio, logicamente sempre con cervello. Come sempre detto a mio babbo, prima che succeda qualche cosa io a casa ci torno con le mie gambe, se è possibile. Sono state situazioni abbastanza pericolose e critiche, però siamo sempre tornati fortunatamente, magari con qualche acciacco. Però poi i problemi legati a come la società oggi ci sono da tutte le parti, ci sono, non solo allo stadio. E in effetti purtroppo diciamo che la visione comune dell'ultras o della persona che va allo stadio, come tu hai vissuto negli anni della tua gioventù di tifo organizzato, è associata spesso ad episodi spiacevoli piuttosto che ad episodi piacevoli. Ma invece ci hanno raccontato anche altri ospiti intervenuti prima di te ai nostri microfoni che comunque dentro la curva si costruiscono anche ponti per aiutare chi sta in difficoltà, per permettere magari a persone addirittura disabili di poter vivere delle giornate normali sotto questo punto di vista. E quindi tanto di cappello dal mio punto di vista per il discorso appunto della socializzazione, e perché in effetti i problemi e le cose che non vanno bene ci sono dappertutto. Ma legato a questo discorso, tu che hai vissuto un Brilliperi come è ancora oggi alla fine sostanzialmente, che tipo di Brilliperi ti augureresti di far vivere ai tuoi figli? Ad esempio di strutture, proprio di stadio, per come è costruito, per come è fatto. Ma io penserei a una cosa polivalente, perché dato i Brilliperi non è solo calcio, ma anche tanti altri sport. Io penserei a, nel mondo di oggi, datoci lavoro anche nel mondo dell'architettura, io penso che un architetto che abbia dei requisiti di poter trasformare i Brilliperi in un ambiente polivalente ci sia, e non solo per il calcio, perché a un certo punto da babbo e da padre di bimbi possono andare a giocare a calcio, ma possono fare anche tanti altri sport. E quindi fermarsi esclusivamente al calcio, e questa è una cosa che ho sempre detto e sempre dirò, non esiste solo il calcio a Montevarchi, esiste anche altri sport e bisogna mandarli avanti entrambi. E quindi una cosa importante è che gli architetti oggi riescono a costruire tutto, riescono a costruire delle cose fantastiche. Logicamente manca una cosa, manca fondamentalmente, nei giorni d'oggi in un comune come Montevarchi possono mancare i soldi, i famosi soldi, e quindi questo rende la cosa molto più difficile. Però piano piano, magari con meno, però per tutti. Auguriamoci che questo accada, anche perché i soldi sono virtuali e quindi insomma. Sì, poi magari è sempre auspicabile che dietro l'angolo ci sia qualche benefattore di soldi, ne ha, vai a sapere mai che non sbuchi da qualche parte. Ma ritornando a una cosa che avevi detto prima, te prima hai citato il libro che è stato fatto dalla Curva Sud in occasione del centenario dell'Aquila, perché è una cosa di cui non abbiamo mai parlato qui in trasmissione, ma durante i 100 anni del Montevarchi e quindi festeggiamenti, la società fece uscire un bellissimo libro con tutti i tabellini e la storia di tutte le differenti stagioni in 100 anni di vita. Più un almanacco che un libro, direi. Esatto, mentre la Curva Sud invece produsse Il Tempio del Tifo, e te eri uno degli autori. Quindi raccontaci un po' come nacque l'idea, come si è sviluppata e come questo libro ha anche girato, perché da quello che ne so io oltre a essere piacevole da leggere e da sfogliare, perché c'è un sacco di foto e c'è tutta la storia del tifo montemarchino, il libro è stato anche acquistato da tante tifoserie italiane. La storia è nata, ma magari anche per essere un po' di contrapposizione alla società del momento, un po' di contrapposizione che è successo alla società del momento. L'idea è nata da due ragazzi della curva, uno è il Dema e uno è il Pruli, e loro mi dissero di scrivere un capitolo, il capitolo dove noi, praticamente nel senso noi, non noi, nel periodo insieme all'Alcol Pestello, al Gruppo Gas, agli Igor Brothers, avevamo portato la curva, insomma, a essere a un livello normale, diciamo, no? Noi ci diamo dei complimenti, e da lì è successo che lo scrivo io, lo scrivi te, lo scrivo io, lo scrivi te, e io mi sono ritrovato a scriverlo tutto. E quindi è successo che abbiamo fatto notti insonni, io con altre persone, abbiamo intervistato persone degli anni 70, 75, perché uno dei primi tifo organizzati a Montepaschi è stato un gruppo degli Ali, dell'MCL, che si chiamava Ultra 77. E quindi da lì in poi scrivi, notti insonni, cioè la nostra bravura nel scrivere al computer, per me era una prima esperienza, anche perché avevo il computer da un mese, e quindi non è come oggi tutti ce l'hanno, una volta il computer non è che l'avevamo tutti. E quindi da lì piano piano poi la grossa ricerca è stata fatta più che altro da chi ha trovato foto, a chi poi piano piano poi la cosa è cresciuta, nata. E qui devo fare un ringraziamento particolare a chi c'è stato dietro e che è stato mansueto, è stato il professor Agnoletti, che ce l'ha corretto insieme, e quindi persone che ha dedicato il suo tempo gratis, e ci ha fatto un enorme piacere che persone che seguivano e venivano in trasferta con noi, che infatti, come si riconduce alla domanda di prima, manderesti tuo figlio in curva? Sì, perché la varietà che si può trovare in curva si può trovare da chi è persone che hanno disagio, ma anche a professionisti seri che mandano avanti aziende. E comunque hai citato gruppi di un periodo storico per il tifo, comunque florido per il tifo montemarchino. Te facevi parte, o comunque sei stato uno dei fondatori dei GAS, quindi per chi non è di Montevarchi o comunque non ha vissuto quegli anni, puoi farci un po' una geografia di quelli che erano i gruppi in quel periodo in cui la curva funzionava tanto, e poi come sono andati a finire, dove sono confluiti? Ma senti, i gruppi di quell'epoca, c'è stato lo scioglimento degli Ultra Giglio, e da lì piano piano noi giovani, diciamo, dell'epoca, anni 90, abbiamo preso un attimo in mano le redini, ma era una cosa molto, molto, diciamo, sporadica. Cioè ci incontravamo, eravamo amici, al Colpestello, Gas, Igor Brothers, la vecchia guardia, che loro ci sono sempre stati. Loro, e questa è una cosa che devo dire, non l'ho citati nel libro, non l'ho citati. E questo me lo sono sempre, è sempre stata una cosa che mi è rimasta indigesta, perché mi sono scordato. E questo, infatti, le mie scuse le ho fatte a suo tempo, però ancora è una cosa che quando non è scritto è una brutta cosa. Dispiace. Questo erano, cioè noi praticamente il giovedì, dal mercoledì, martedì riunione, giovedì, dal mercoledì al giovedì giro di bar, cosa facciamo, cosa non facciamo. E questi erano i tre gruppi. Le Gold Brothers erano al bar del Giglio, anche se il Giglio non c'era più, ma il Giglio c'è sempre stato, si era defilato. C'era il gruppo Gas, e poi piano piano negli anni a venire la C1 riunisci, poi alla fine tutte queste cose sono confluite nella famosissima serata fatta alla ex Giglio di Montevarchi, di riunirsi tutti in nome delle brigate. C'è chi gli stava bene, chi gli stava male, però poi ha funzionato, perché Brigate è stato un altro punto di ripartenza, un altro input in più che tutti identificarsi in un gruppo solo e di riportare in alto un nome, insomma, importante. Che è un po' come sta succedendo oggi, dopo anni magari di un po' smarrimento anche dovuto alle categorie o all'andamento della squadra, perché è inevitabile che se la squadra va male, per molti anni, la gente si disinteressi in qualche modo, o quantomeno smetta di partecipare attivamente alla vita della curva, ma adesso che invece le cose stanno andando bene da un po', quello che sta succedendo nella curva è appunto ritornare a identificarsi sotto un unico nome tutti insieme. E questo è stata una bella notizia. Io l'ho vista con il derby della San Giovannese, vedere uno striscione unico che riporti tutte le varie sfaccettature, i vari gruppi, i vari gruppuscoli del tifo riunirsi sotto un solo nome, quello che noi avevamo già fatto anni fa. E questo vuol dire che insomma qualcosa di positivo abbiamo trasmesso, cioè l'unione può fare tante cose. Tanti cani sciolti alla fine portano solamente a poco, anche perché i numeri a Montevarchi sono quelli e possiamo solamente avere quelli. Possiamo avere qualcosa in più se facciamo una categoria diversa, ma non ad oggi. È una scelta veramente bella. Abbiamo parlato dei gruppi degli anni 90, c'era un grande fermento, il Montevarchi era in Serie C. Ma se il Montevarchi oggi tornasse in quella che allora era la Serie C, ovvero in Lega Pro, secondo te, Alberto, la tifoseria di Montevarchi rischierebbe dei seri danni oppure no? O anche solo se fosse inserita in un girone di Serie D differente da quello di oggi? Secondo me ci potrebbero essere dei problemi, perché quando vai allo stadio, quando vai in trasferta, le tensioni ci possono accadere. Magari parti in macchina, magari parti in 20, magari parti con un pullman, e il pullman poi è quell'elemento trainante di tutta la curva, e se ti fai degli scontri oppure possono creare tensioni, o la telecamere, biglietti nominativi, ci sono un sacco di cose, potrebbe essere un problema. O decidi la linea come è stata presa qualche anno fa da altre tifoserie, anche maggiori di Montevarchi, di evitare totalmente lo scontro, e sono andati avanti. Montevarchi, se succede i montevarchini poi non si tirano indietro e succede, magari fai un pullman, vai che ne so a Massa, succede qualcosa, scendi, tiri una briciola di pane e diffidano tutti i pullman, e questo è un problema. Nei tempi dello smartphone può succedere che qualcuno ti faccia un video, insomma. Certo, e quindi siamo diventati tutti internauti, e quindi un video o una foto può scappare, sequestro del telefono, cose varie, e quindi è bene. Sono scelte da vedere se succederà. Bene Ninja, siamo quasi giunti alla conclusione. Raccontaci quello che è il ricordo più vivido, più bello che hai vissuto seguendo il Montevarchi. La partita indimenticabile, oppure la trasferta indimenticabile, o comunque sia a livello di gioco che a livello di tifo, il tuo momento apice in una carriera da tifoso. Il momento apice è stata Montevarchi San Donato, però in quel campionato ne successe tante altre, oppure anche nei campionati prima. Io voglio ricordare una trasferta epica, secondo me, Ponzacco Montevarchi, dove siamo retrocessi praticamente, abbiamo fatto gli spareggi poi a Empoli, ma dove è successo di tutto. Siamo partiti in treno senza avvertire nessuno, siamo arrivati a Pontedera senza avvertire nessuno, ci hanno caricato in un pullman di linea, in 100 dentro un pullman di linea, e ci hanno portato a Ponzacco. Poi è successo di tutto, e lì sono stati i primi diffidati, due persone di Montevarchi. E di lì ci siamo resi conto che forse qualcosa di importante potevamo fare. Qualcosa abbiamo fatto. Poi nominare partite come San Donà, Baracca Lugo, tutto fa. Però secondo me la partita più importante per me a livello personale, e questa qui, è stata Ponzacco Montevarchi contro la Tana dell'Orso. Bene Alberto, grazie mille di essere intervenuto ai nostri microfoni per il nostro volo alla ricerca della Montevarchinità. Grazie da parte mia, grazie anche a tutti gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno ascoltato fino ad ora, grazie al nostro regista di stasera, ovvero il grande, mitico padrone di un nuovo sodo, ovvero Paolo Virzì, è importantissimo anche stasera. Grazie anche da parte mia, Fumino, appunto, di essere stati all'ascolto. Io ringrazio tutti, ringrazio te Ninja, sempre un piacere vederti e ascoltare le tue storie. Io ringrazio voi, è stata per me una bella esperienza, perché state portando avanti un progetto importante di far conoscere quello che è stato, quello che è oggi e quello che verrà. E continuate così, perché veramente state mettendo una pietra miliare veramente importante su quello che è Montevarchi. Ricordiamoci tutti, Montevarchi è una delle città delle prime 100 città italiane e bisogna essere fieri di esserlo. Ciao a tutti. Bene, grazie, grazie Ninja ancora da parte mia. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la nuova puntata di Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, come sempre sulle frequenze di Radio Big World. Ale, buonanotte. Grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni ad Alberto perché c'è un tasto R. E mi è arrivata sta pizza. Mi sembra di essere nato zero. Ho fatto un discorso. Serio? Dai, hai su arrivo, dai. Sì, è che sì, sì, lo so, però non so come fa arrivare a poi di parlare lui. Quello degli Ultras era sempre per i centenari. Sì, che esatto. Poi la presentazione è stata fatta all'ex Petulia, c'era Ciccio Graziani e con Cimiglio presidente. Se tu puoi, te ne puoi dire anche l'amministrazione di Montevarchi, perché è vero. Hanno venduto la parte tagliaretini. Mezza squadra, poi. Secondo me se il prossimo anno si va a giocare in Sardegna o Nigirone della Massese, il Viareggio, quel girone come quest'anno. Tu devi fare una scelta. Ci mettessero qui i gironi, noi alla fine dell'anno siamo 20 10. Meno e quindi siamo buoni. Fa una scelta. Siamo talmente poi in partenza. O fai la scelta come hanno fatto tifoserie tanti anni fa di non fare, di non scontrarsi per evitare diffide, per l'esiguo numero di discorso e portare avanti lo stesso discorso. Ok, aspetta, facciamoci la foto sai che ci dovrebbe un birra però.